Cari cristiani, venendo a messa, voi oggi avete fatto un grande gesto per voi stessi. Non lo si fa per il Signore, ma venendo alla Santa Eucaristia Domenicale si viene a metterci alla presenza del Signore per essere noi riempiti da Lui. Anzitutto riempiti della sua benedizione. Io incontro anche durante la settimana molta gente che viene dal sacerdote esorcista a chiedere benedizioni, ma io dico, ma la più grande benedizione è quella della Santa Messa. Io poi vi do tutte le benedizioni che volete, ma quella è la benedizione per eccellenza. Non solo. Venendo anche a Messa, noi poi riceviamo delle istruzioni per la vita. Non crediate che la parola di Dio serve solo per lo spirito umano, serve per la vita. La Bibbia non è tanto un libro di meditazione. Io lo chiamerei un libro dell'esistenza e vi porto l'esempio direttamente di oggi. Nella prima lettura, che è presa dal libro di Samuele, primo libro di Samuele, capitolo 16, troviamo un insegnamento straordinario che io poi cercherò, se riuscirò, di far scendere giù nella nostra esistenza di tutti i giorni. Bisogna scegliere il nuovo re in Israele. E il profeta Samuele è mandato da Dio a Betlemme, nella casa di Jesse, perché dice: lì c'è il futuro re, vai a consacrarlo. Samuele va, Jesse convoca tutti i suoi figli in casa per il pranzo sacro. Samuele, come vede entrare uno, Eliab, che si impone su tutti, come statura, come bellezza, come prestanza fisica, dice dentro di sé: ah, Signore, senz'altro tu hai scelto quello lì. Ma il Signore gli dice nel suo cuore una frase bellissima che faremmo bene a tenere a mente nella nostra esistenza: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura, io l'ho scartato. Perché non conta quello che vede l'uomo. L'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Poi li fa passare tutti e sette, in nessuno di essi c'è il prescelto. Dice: non hai altri figli? Se c'è il piccolino, ma è a fare il pastore con le pecore in campagna. Chiamalo, chiamalo. Ed è proprio quello il prescelto, Davide. Carissimi, noi dobbiamo chiedere lo Spirito Santo che ci dia la sapienza di capire e di scegliere, non sulle apparenze, ma per quello che riguarda l'intimo, il cuore dell'uomo. E vi porto due esempi. Quante volte io ho sentito in alcuni matrimoni falliti la sposa in genere dire: si è rivelato diverso da quello che l'avevo conosciuto prima, mio marito. Prima era, e invece adesso non ce l'ho più fatta, dopo un certo numero di anni. E la mia mamma me l'aveva detto: guarda che non va bene per te, ma io, testarda, ma io lo cambierò. Cari amici, noi non abbiamo nella vita la possibilità di troppe scelte. Le scelte le fanno gli altri per noi, anche da un punto di vista politico. Crediamo di essere noi a scegliere invece, da un punto di vista economico. E nella socialità? Ma in tutto noi non abbiamo in mano la possibilità di scegliere. Forse, ma neanche quando hai un figlio, devi prendere quello che ti arriva. Eppure lo fai tu. Forse l'unica cosa che possiamo scegliere è quando devi scegliere l'uomo o la donna della tua vita. E allora lì dobbiamo tenere presente questo e chiedere al Signore, care mamme, cari papà, care nonne, pregate perché i vostri nipoti, i vostri figli scelgano la persona giusta in base alle virtù che ha, scartando i vizi. Ecco, queste due parole non si usano più, le virtù e i vizi, e invece sono quelli che fanno la persona. Ma non ti sei accorta che già aveva le mani bucate? Ma non ti sei accorta che ogni volta che passava una ragazza lui allungava l'occhio? Ma non ti sei accorto dei suoi vizi? E che virtù aveva? Le virtù. Ma non la faccio lunga su questa perché credo di aver detto abbastanza chiaramente il mio pensiero. Vorrei portare il nostro sguardo su noi stessi, perché anche noi siamo guardati dagli altri e siamo guardati da Dio non per l'apparenza esterna, non per le nostre chiacchiere, ma per il nostro cuore. E il cuore non è tanto la sede del tuffo al cuore dell'amore, dell'adrenalina che si scatena quando tu sei colpito. Il nostro cuore è soprattutto la sede del discernimento, del poter capire. Le virtù e i vizi anche in noi. Ma ditemi, cristiani, un cristiano, voi ma anche altri, non voglio puntare il dito su nessuno, e anche se dico per caso voi, non è certo per ragionare, insomma. Quando un cristiano, quando noi ci fermiamo a guardare i nostri vizi e le nostre virtù? Non lo so. Io però so che c'è un modo, e purtroppo, lasciatemi guardare in faccia, lo fate troppo raramente, ed è la confessione. Nella confessione, la confessione fatta bene, non sono passato, ho visto che era dentro il confessionale, sono venuto a confessarmi. Non ti sei preparato, non ti sei preparata. E da quanto tempo non ti confesso? Oh, mica tanto, è da Pasqua, sono 6 mesi. Bravo, io dico di solito. Tu fai la doccia ogni 6 mesi, vero? Perché tu non hai... No, ma che peccati vuole che abbia? Vuoi che analizziamo bene i tuoi vizi? I tuoi peccati? Cari amici, non offendetevi, vi sto facendo l'esame di coscienza, vi sto facendo un regalo, dovreste pagarmi da bere. Quando mai ti sei messa allo specchio della tua coscienza, del tuo cuore, per discernere bene i tuoi vizi, i tuoi difetti, per migliorarti? Quasi mai, perché di fronte agli altri noi ci difendiamo sempre. Anche quando ci attaccano giustamente, noi, te ti sei guardato come sei? Ma se ci è stato detto un nostro difetto, quando accettiamo le osservazioni, quando diciamo grazie che mi aiuti a guardare nel mio cuore. Cari amici, imparate, io non posso fare una catechesi sulla confessione durante la predica domenicale, ma qualche parola la voglio spendere ancora. Imparate a confessarvi bene. Papa Francesco ebbe a dire che lui va a confessarsi ogni 15 giorni. E anch'io già lo facevo questo. Voi per favore non fatelo, eh? Non venite a confessarvi ogni 15 giorni, se no noi preti siamo soffocati perché siete in troppi. Ma una volta al mese sì. Una volta al mese sì, cari amici. E se io vi chiedessi, ma tu sei capace di confessarti bene? Hai uno schema mentale per analizzare il tuo cuore? Purtroppo sono pochissime le persone. Vedo tanta gente che si confessa ancora con lo schema che aveva da bambini. Bisogna prepararci, amici. Se tu vai a fare un esame universitario, non dici al professore, mi faccia lei le domande. Il professore ti dà un argomento e ti dice, sviluppalo. Il sacerdote ti dice un argomento e ti dice, come va la tua coscienza di fronte a Dio, di fronte ai suoi comandamenti? E questo sarebbe l'aspetto di vedere i difetti, i vizi. E poi, ma lo vedremo un'altra puntata, bisognerebbe guardare anche le virtù. Per esempio, la preghiera. Tu preghi? La settimana è fatta di 168 ore. Proviamo a vedere quanto tempo dedichiamo alla preghiera. La parola di Dio tu la ascolti, sia la domenica per fortuna, ma è la parola di Dio che ci cambia il cuore. Sei capace, per esempio, di chiedere scusa? Quanto poco questa parola esce. Eppure, dopo che abbiamo sbagliato, se sappiamo chiedere scusa, si rimedia. Bene, cari amici, continuiamo la Santa Messa, chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a saper distinguere vizi e virtù negli altri e in noi stessi.